24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. E non è deluso. Ma sono felice, io sono felice perché quando ieri metto fantasco bellissimo era vero, non era ironico. Io sono felice, ma vedo che depistano l'informazione per non andare sulla catastrofe loro, perché se fa una comparazione tra amministrative, loro hanno perso, noi abbiamo vinto consiglieri. Eccolo lì, adesso è tutto ribaltato, siamo noi che abbiamo vinto, dice Beppe Grillo, e sono loro che hanno perso. E allora è così, cari ascoltatori, benvenuti, questo è 24 mattino, e allora vi do il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666, ma insomma, ma chi diavolo ha vinto? Io ho due giorni che me lo chiedo, ma chi ha vinto queste elezioni? Grillo adesso dice che ha vinto loro. Hanno perso gli altri, in termini di voti certamente hanno perso un po' tutti, però c'è chi ha vinto i primi turni e qualcuno, il sindaco, lo metterà in questo diavolo di amministrative. Poi che dobbiamo dire, cari ascoltatori? Non lo so, adesso dite la vostra, poi adesso chiacchiereremo. Intanto possiamo, dopo aver salutato Miriam Lucchetti in redazione e il nostro Alpino ovviamente come sempre in regia, dare il via al nostro, all'apertura del nostro Parlamento? Sì, apriamo. Parlamento è aperto. Nicole Minetti c'è. Il caffè volentieri a tutti quanti. Offre il caffè come sempre. E allora chi posso, chi voglio, chi devo salutare? Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, buongiorno. Ma l'abbiamo svegliata, Rienzi? L'abbiamo svegliata. No, svegliato no, però no. Non avevo avuto conferma della telefonata. Ah, mannaggia. Sono qua. È qua comunque. Le presento il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Maurizio, buongiorno. Ma ci conosciamo. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Allora, ha vinto Grillo. Questo è. Dai Maurizio, adesso dai, di subito le tue. Hai un minuto di tempo per dire tutto ciò, no, che pensi. No, Grillo non ha vinto. Grillo ha letto Travaglio e qualcuno finalmente gli ha dato la linea. Direi. Ah, che, ecco. Se posso andare sul cattivo, tanto sai che io Grillo per me non è la mia maggiore simpatia. Beh, potevi essere anche più cattivo, cioè ti sei limitato. A volte sei anche più cattivo. Privato sei più cattivo. No, posso anche dire che nel marasma più totale, ma nel marasma lo sono tutti. Grillini da quando sono arrivati in Parlamento non hanno combinato niente. Continua. L'accusa, parlano solo di scontrini, però loro dicono: ma andate a vedere sui siti tutti i disegni di legge che abbiamo presentato. Sì, ma ne hanno presentati pochi, anche di attività ispettiva, come si dice, cioè interrogazioni e interpellanze sono ben poche, sono, obiettivamente contano poco, purtroppo, perché è uno spreco di democrazia, uno spreco di attività, sono giovani volenterosi che però sono inesperti e anche beh, che siano inesperti, questo lo dicono anche loro, è tutto estremamente fisiologico, non mi pare di dire cose estremamente originali, comunque, ma è la verità. Comunque ha vinto Grillo, cioè Grillo dice ho vinto io. Sì, perché lui sostiene che l'astensione è ovviamente tutta filo grillina. Di fatto non hanno eletto nessuno e quindi non hanno vinto. Ma dice avremo più consiglieri di prima. Non so. Rienzi, lei come la vede questa cosa? Ma io penso che sia stato utile Grillo in quest'ultimo pezzo della nostra storia. Io infatti l'ho in parte votato alle politiche, non ho votato invece più adesso alla vista di Averloro, perché ha ripulito, ci ha aiutato a eliminare una serie di vecchie glorie che veramente a partire da Di Pietro, per finire con i Verdi, con l'UDC di Casini, Fini, dobbiamo ringraziare Grillo. Quindi lei l'ha votato, quindi però adesso... Al Parlamento l'ho parzialmente. Parte ho votato Grillo ed altri. E adesso, quindi la funzione l'hanno svolta, poi hanno fatto capire che loro non hanno purtroppo una guida che ha un'esperienza tale da poter incidere concretamente. Noi per esempio li abbiamo invitati a fare delle cose, non so, a lottare per il Monte dei Paschi contro i 4 miliardi del Monte dei Paschi di Siena, si è invitato Grillo a venire all'assemblea del Monte dei Paschi, non hanno proprio risposto. Quando ci hanno chiesto qualche consiglio e gli abbiamo dato volentieri, abbiamo detto ma volete che vi consigliamo anche più stabilmente, dice sì, mandate il curriculum per fare gli assistenti parlamentari con noi. Fantastico, Carlo Rienzi assistente parlamentare di Roberta Lombardi per esempio, no? Abbiamo lasciato perdere, insomma, ma non perché questo è un segno di arroganza, ma perché è un segno di un pochino di inesperienza. Sì, allora adesso hanno fatto la loro storia, adesso vediamo che cosa succede. Cioè, adesso ne stiamo parlando, sono stati eletti in grande numero 2 mesi fa, Maurizio, ne stiamo parlando come se fosse già preistoria. Vabbè, allora teniamoci sto governo democristiano, viva la democrazia cristiana, moriremo tutti democristiani. Si stanno spaccando su questo, penso che potrebbe anche fare un'altra scelta. Sì, sì, si possono spaccare sulla legge elettorale, è una cosa che di cui adesso parleremo, non voglio neanche, non vorrei dedicarvi neanche 10 secondi, ma... Maurizio, senti cosa ha detto Salvo Mandarà. Lo conosci Salvo Mandarà? Forse l'hai visto perché è sempre lì sul palco. Io l'ho ascoltato ieri sera alla Zanzara. Ieri c'era un con il mento che mi rimbalzava sul pavimento. Ieri c'era un David Parenzo con Cruciani alla Zanzara. Posso dire epocale. Parteggiavo per Parenzo. Allora, Salvo Mandarà, lei Rienzi lo conosce? Forse l'ha visto sul palco. È quello che sta a 1 centimetro da Grillo. Lo riprende da 10 centimetri. Ah, quello di sì, che ha detto che se ne andava. Che se ne va dall'Italia, perché dopo questo voto ha detto se ne va all'estero, perché sentite, siamo uno Stato e un popolo, sentiamo Salvo Mandarà. Io non voglio assolutamente più vivere in uno Stato di merda come questo, dove c'è un popolo di merda. Lo so, adesso mi sto attirando l'odio di tutti coloro che mi seguono, lo so benissimo, sono consapevole di questo, non mi importa. Siamo un po'... Ma sentite, poi rincara la dose, Io scendo da questo carro che probabilmente, e auguro all'Italia, diventi il carro dei vincitori, ma non so quando, purtroppo. In questo momento non ho la minima speranza che questo possa accadere, perché ci sono ancora troppi italiani collusi, ci sono ancora troppi italiani delinquenti, ci sono ancora troppi italiani ignoranti, soprattutto. Questo è Salvo Mandarà. Intanto il clima è un po' questo. Maurizio, ti leggo questo messaggio che è arrivato. Dica a quel servo maledetto di Panorama, cioè te, che nelle vecchie legislature si è legiferato di meno, quindi servo maledetto, questo è. Si è legiferato di meno rispetto a che cosa? No, non lo so, l'SMS finisce così, io adesso non è... Via quel cretino che scrive che vada a far culo. Comunque, no, se no poi entriamo, va bene, è molto grillino però, è un vaffa grillino, ecco. Sì, ma è un vaffa grillino anche a lui, scusami, io a questo punto vaffa per vaffa, vado tutti a fanculo, scusami. E io trovo che la cosa negativa di Grillo, e lo mi rivolgo anche all'avvocato Rienzi, è proprio questa, cioè l'aver trasformato il dialogo, il dibattito, anche nelle sue forme più aspre, nell'insulto. Sì. Nell'insulto e nella sgradevolezza, nella violenza verbale, che è obiettivamente il portato di ignoranza, perché questi sono tutti ignoranti, non hanno la più pallida idea di che cosa sia la stata, la storia italiana, non sanno obiettivamente spesso, più delle volte non sanno assolutamente nulla, sono dei violenti, fondamentalmente dei nichilisti fascisti, e quindi è gente pericolosa. Io la vedo esagerata. No, adesso Maurizio, forse però devo dire, no, ma però io Rienzi, Maurizio lo conosco bene, è una persona per bene, una persona sempre pacata, si è arrabbiato per questo, non te lo dovevo leggere, vabbè. Ma guarda che arrivano. No, dato che voglio dire, su Twitter, su Facebook, arrivano cose di questo genere sempre. Sì. Io francamente mi sono un po' rotto i coglioni, trovo che è una cosa sgradevolissima, trovo che questa gente dovrebbe abbassare le creste, abbassare le orecchie, leggere qualche libro di più, prepararsi un pochino di più, e francamente trovo che il tono e il tipo è il momento anche dell'insulto, è così. Non è che non è giusto, ma voglio dire, è innegabile che il clima è questo. Mi hanno educato in una certa maniera. Però attenzione, Rienzi, che c'ha l'insulto? No, dicevo che l'insulto ai politici è una cosa che abbiamo dentro tutti, cioè sì. Non è... Ma una cosa averla dentro, una cosa tirarla allora, fuori. A me hanno insegnato che le parolacce non si dicono. A questo punto, visto che me le dico, le dico anch'io. Lo abbiamo dentro. Ma è il meccanismo. Loro sono stati capaci di esprimere questa voglia di mandare a quel paese tutti i politici che veramente ci hanno stufato e ci avevano stufato. Quando io, prima delle politiche, pubblicai sul blog voto Grillo perché non voto Grillo, cioè chi ha votato Grillo pensando di creare una nuova forza politica come quelle precedenti ha sbagliato, chi lo ha votato per fare pulizia ha fatto bene, adesso quello che devono fare hanno fatto, bisogna tornare a una nuova fase, per esempio la legge elettorale, una cosa che sembra strana, io sono contro le preferenze, perché se si riesce a scegliere i candidati, non dico proprio come Grillo, ma quasi, perché il PD per esempio ha fatto le primarie, però un bel po' ne ha messi, che gli amici loro li hanno messi avanti senza farli valutare dalla gente, gli altri invece sì. Ecco, con questo sistema ok, ma attenzione alle preferenze, sì. Sono un sistema per fare corruzione, la mafia, l'andrangheta, è stato così in passato, ci sono state inchieste su questo, ma sarà così anche in futuro, quindi ritorno alle preferenze, tutti si riempiono la bocca, dobbiamo scegliere gli elettori, bisogna scegliere in un modo diverso, non con le preferenze, perché si spende un sacco di soldi e si va in mano, soprattutto dove c'è, dappertutto ormai in Italia, alla criminalità organizzata. Sì, certo che bisogna dire che ieri sulla questione della riforma elettorale, caro Rienzi e caro Tortorella, è successo uno, veramente poi si dice lo psicodramma, no, PD, psicodramma, guardate i titoli, la stampa, riforme PD sull'orlo di una crisi, il secolo XIX, il PD si spacca sul porcello, si stavano a sfasciare perché Giachetti ha fatto una mozione in Parlamento per tornare dal porcellum al mattarellum, e subito i suoi le hanno detto ma che fai, ritira la mozione, si stavano spaccando su questo. Poi in serata è intervenuto anche Matteo Renzi, che ora viene accusato dai lettiani di essere il mandante di Giachetti e quindi di tramare contro il governo, cioè una roba veramente che solo il PD riesce a creare. Sentite Renzi ieri da Lilli Grube. Io ho un'unica preoccupazione, che il governo e la maggioranza non rinvino troppo, cioè mi pare che stiano, che il rischio vero è la melina, questo è un governo delle larghe intese, non vorrei che diventasse il governo delle lunghe attese, ecco. Dalle larghe intese alle lunghe attese, allora Rienzi, che Tortorella, Rienzi, che succede? Ma questi... è veramente antipatico, la Finocchiaro l'avete sentito che ha detto, non vi permettete di firmare questa mozione, fa... E Renzi è un furbacchione che vuole arrivare al potere. Oh, non mi piace né l'una né l'altra. Lo psicodramma. Tortorella, sentiamo anche la Finocchiaro, così che se commenti Tortorella. Finocchiaro, no? Sentite come perentoria che dice. Io credo che la mozione Giachetti sia stata presentata in maniera assolutamente intempestiva. Non possiamo neanche per un attimo pensare di mettere in forse le riforme con colpi di prepotenza. Ah, intempestivo e prepotente, Maurizio. Tutto all'interno dello stesso partito, tutti sono tutti del PD, insomma, si litigano così su una cosa che gli italiani non capiscono, non gliene frega neanche niente, e succede questo. Beh, il PD è chiaramente spezzato in due, da una parte gli ex appartenenti al Partito Comunista e ai suoi partiti che ne sono derivati, e dall'altra parte tutti gli altri. È un dato di fatto inequivocabile che sicuramente ha il difetto disastroso di rallentare moltissimo l'attività di governo, e questo governo dovrebbe fare ben altre cose obiettivamente, dal mio sommesso punto di vista. Ma intanto Maurizio hai scatenato, io devo dire, hai scatenato una ridda di mail, di SMS, scusa, dica al giornalista di Panorama che la stagione degli insulti l'ha inaugurata. L'ha inaugurata? Questo tipo di lavoro non si capisce, un po' confuso. C'è chi ti dice ha ragione, l'insulto non è accettabile, nascondendosi dietro un SMS, c'è chi sta con Mandarà, c'è chi invece dice se ne va Mandarà l'Italia migliora, vabbè, le parolacce non si dicono, anche Maurizio l'ha detto, però Maurizio ha detto io siccome le dite voi, allora adesso mi sono rotto i coglioni, la rivolta di Maurizio Tortorella. Va bene, andiamo a sentire il traffico, poi la segreteria, poi voglio andare alla copertina di Panorama, perché è una storia di cronaca terribile di cui si è parlato molto e che ha un aggancio anche oggi sui giornali, oggi la storia di un ragazzo gay, 16 anni, che dice: sono stato deriso da tutti, ha tentato di togliersi la vita. Ripartiamo da qui tra poco. 24 mattino. Caro Milan, siamo degli amici che abbiamo constatato che la zappa di 7 kg e la mazza di 10 kg non bastano più. A questi politici dobbiamo mettergli un aratro intorno al collo e andare ad arare i campi dalla mattina alla sera al posto dei cavalli, anzi degli asini, che non sono altri. Caro Milan, io sono stanco di questi inquilini dentro in casa mia da 2 anni che non mi pagano, e uno Stato è che non fa leggi per prevenire questo problema grossissimo della gente che non paga l'affitto, ma non perché c'è la crisi, questo è l'ennesimo alibi. La gente non paga l'affitto perché sono disonesti, hanno trovato il modo di farlo. Per cui io ti prego, questo appello è allo Stato, che faccia leggi contro questi approfittatori meschini che sono come i falsi invalidi, questi maledetti che, guarda, non dico niente perché non mi piace maledire, grazie. Volevo dire ai nostri politici che sono dei ladri, ci hanno rubato la voglia di sorridere, di credere, di sperare, di fare progetti, ai giovani hanno rubato la speranza in un futuro migliore e noi continuiamo a chiamarli onorevoli. La violenza non è soltanto quando si spara, ma è anche quando vengono sottratti i diritti alle persone. Buongiorno Alessandro, sono un imprenditore, piccolo imprenditore, della provincia di Vicenza. Siamo talmente stufi che non ce la facciamo più. C'è qua un continuo pagar tasse. Grillo, hai sbagliato e pagherai. Alle politiche hai consegnato l'Italia nelle mani di Satana, e quindi sei stato condannato a perdere tutte le elezioni fino a scendere a sotto zero come un surgelato. Ha parlato il portavoce del Padre Eterno. Vabbè, portavoce del Padre Eterno, ogni tanto ci chiamava Satana, adesso ci chiama il portavoce del Padre Eterno. Vabbè. Siamo con Maurizio Tortorella e con Carlo Rienzi. Allora, un ragazzo di 16 anni ha tentato il suicidio perché deriso su Facebook da amici, amici, oddio, si usa questa parola. Ricorda questa la storia che oggi Panorama in copertina di Carolina, ricordate, ragazza di Novara, 14 anni, si è suicidata dopo essere messa anche lei alla gogna, Maurizio, dai compagni. Ho ricevuto 2600 messaggi in 24 ore, nei quali sconosciuti, oltre che conoscenti, la offendevano, la maltrattavano. Sì, per una festa dove aveva bevuto un po'. Per colpa di un video che era stato pubblicato, certo. Allora, non bisogna certo arrivare, per carità, a censure, tanto controllare la rete è impossibile, insomma è anche un po' qualcosa che va contro la natura della rete stessa, no? Che è libera. Però si pone certamente un problema. Intanto voglio fare una domanda. Tu da genitore controlli o controlleresti, Maurizio, tutto quello che scrive tuo figlio, i tuoi figli in rete? Guarda, partiamo da un errore fondamentale. Mio figlio, che ha 14 anni, è su Facebook. Sì. Ed è un errore. Un errore che gli è stato consapevolmente permesso, laddove invece tutti sanno che dal punto di vista strettamente legale soltanto un 18enne dovrebbe avere accesso al suo profilo Facebook. Ma lì c'è un errore proprio, al di là della maggiore età, è proprio un errore anche educativo secondo te? Lo ammetto col capo cosparso di cenere, sì, è un errore assolutamente educativo. È un errore educativo che però è stato consapevolmente fatto per non farne un disadattato, perché sarebbe stato l'unico della sua classe, l'unico dei suoi amici a non avere un profilo Facebook. Quindi c'è purtroppo un fatto imitativo, mimetico, non so come definirlo, che obbliga anche i genitori avvertiti e consapevoli, come i quali io spero di esserlo, che obbliga, appunto, ripeto, i genitori a fare errori. E ogni tanto controllo e guardo che cosa scrive, ma in maniera segreta, così lo sa, sono anch'io su Facebook, certo, ho accesso. Sì. Abbiamo più volte parlato dei rischi di internet, abbiamo parlato anche proprio qualche giorno fa e gli ho detto che avremmo fatto una copertina proprio su Panorama parlando dell'argomento, ma credo che sia, nel suo caso, mi auguro che non avvenga mai una cosa del genere. No, ma è chiaro, ma questo sì, però Carlo Rienzi, voi del Colocos immagino abbiate fatto anche esposti su questo, però sì. il tema c'è, che si fa? Controllare e vietare non si può. Cioè, no, ma poi non c'entra Facebook, cioè, quei ragazzi bulli che hanno fatto quello che hanno fatto lo avrebbero fatto in un modo diverso, e questo è un problema di educazione che prescinde da Facebook, sì. È un problema di assenza delle famiglie, se uno ha un figlio educato è educato anche su Facebook, se non è educato c'ha dei problemi. Però non crede che però il proliferare degli strumenti anche incontrollabili, uno non è che può controllare tutto, no, 360 gradi, può aiutare in qualche modo che nelle pieghe. Poi non credo, occorre una regolamentazione, e per esempio io devo dire che sul mio blog a volte arrivano parolacce, offese eccetera, sì. Io li curerò tutti questi qui, cioè non tanto per essere chiari, e l'ho messo come avviso proprio dicendo: guardate, chi offende sarà querelato. E Carlo Rienzi è avvocato, state attenti, cioè, ci mette un secondo. E la cosa finisce, perché poi capiscono che passano dei guai, rotture di scatole, eccetera, eccetera. Quindi l'educazione si può anche imporre, anche in questo modo o in altro. Per i ragazzi invece è un problema di vicinanza. Andare a scuola, stare ore insieme. Maurizio, a me dispiace che dobbiamo concludere, ma insomma in questa storia che io leggo con molta attenzione, c'è anche proprio un focus sul cyberbullismo che purtroppo si sta diffondendo. Sta crescendo. Soltanto le denunce sono praticamente quintuplicate nei primi 4 mesi del 2013 rispetto al 2012. Sì, è un problema grosso. E io penso però che il mezzo sia un rischio. Nel senso che, per esempio, lo stalking prima del telefonino non c'era. C'erano perché c'erano i pazzi, ma non ha avuto lo sviluppo che purtroppo ha avuto negli ultimi tempi. Va di pari passo con la tecnologia, purtroppo, come tutte le cose la tecnologia può essere usata bene o male. Io vi ringrazio, comunque trovate la copertina di Panorama, Face Shock, c'è anche proprio il volto di Carolina Picchio, 14 anni, la storia raccontata in prima pagina o in copertina. Grazie a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Carlo Rienzi, presidente del Codacons. E allora andiamo al giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi parleremo un po' di politica. Grillo che tuona, chi va col PD è fuori. Avremo ospite l'onorevole Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle, colui che sostituirà la capogruppo Roberta Lombardi tra qualche giorno. Avremo con noi anche il senatore Marcucci del PD, è un renziano. Insomma, che succede? Poi però prima alle 8:15 andremo a Comiso, sarà con noi il sindaco di Comiso. Oggi c'è l'inaugurazione ufficiale, l'apertura dell'aeroporto di Comiso con tanto di benedizione, ricordate? È una vicenda che abbiamo seguito anche in passato e pare che ci sia tutto, tutto pronto. Mancano le compagnie aeree che vogliono andare a Comiso, ma c'è tempo, siamo in provincia di Ragusa, in Sicilia, l'Italia degli aeroporti, siamo anche questo. Ora però andiamo a sfogliare prima i giornali che trovate in edicola. È giovedì 30 maggio e i titoli, intanto c'è chi sceglie la promozione da parte dell'Europa. L'Italia torna in Serie A, ma l'Europa chiede riforme, così apre il Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera Italia promossa con riserva. Per Repubblica, l'Unione Europea, l'Italia ce l'ha fatta. E il Messaggero, Italia promossa, restano i vincoli. E poi la politica. Ieri sul tema delle riforme, in particolare della legge elettorale, scusate ma viene sempre un sorriso quando si parla di questo tema, siamo alla quarta settimana decisiva per la riforma elettorale, vi ricordo. E il PD si stava spaccando. La Stampa, riforme, PD sull'orlo di una crisi. Il Giornale, ora Renzi prova a far cadere Letta. mentre altri giornali, il Secolo XIX, il PD si spacca sul Porcellum, l'Unità, riforme al via, tensioni nel PD. Ecco il capolavoro ultimo. Libero, i paesi a tasse zero, siamo circondati, imposte leggere, costo del lavoro basso, burocrazia all'osso, servizi, incentivi dalla Francia alla Macedonia, così i nostri vicini fanno ponti d'oro alle nostre aziende. E poi la morte di Franca Rame, l'apertura per il Fatto Quotidiano, se n'è andata anche Franca, questo è il titolo, mentre il Manifesto mette la foto di Franca Rame con il titolo Bella Ciao. E Avvenire invece, liberare la domenica si può, chiusura festiva per 500 punti vendita, parte dal Veneto, dal colosso commerciale Unicom, la svolta pro famiglia, così Avvenire. Allora, voglio partire da una terribile storia di cronaca, una storia di cronaca che ci riporta a una storia, a un'altra storia di cronaca di cui abbiamo parlato anche poco fa alle 6.30, che è la copertina oggi di Panorama. Allora, la storia che oggi racconta i giornali è di un sedicenne rumeno gay, ragazzo gay, che dice: non ne posso più, mi prendono tutti in giro. Anche mio padre mi prendeva in giro, mi invitava a avere rapporti con le donne, cosa che io non riuscivo a fare. E questo ragazzo ieri si è gettato dalla scuola, dalla finestra della scuola durante la ricreazione. Fortunatamente c'è stata una macchinetta, se non sbaglio, che ha attutito la caduta. Il ragazzo si è cavata, ha due caviglie rotte. Ma bullismo a scuola, giù dalla finestra. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera. Il Messaggero invece dedica una pagina: tenta al suicidio a scuola, deriso perché gay. E questo riporta sempre il tema anche dell'uso dei social network, perché molto spesso, soprattutto tra adolescenti, queste derisioni, questi insulti, questo cyberbullismo, come viene definito, viaggia appunto attraverso lo strumento tecnologico. Tenta suicidio a scuola, sono omosessuale, tutti mi perseguitano, anche questo è il titolo del giornale. Come detto, ricorda la storia più terribile di Carolina Picchio, che lo scorso gennaio a Novara si è tolta la vita dopo che era andata a una festa, 14 anni, forse aveva bevuto un po', era stata ripresa, si sa, gli adolescenti, e poi era stata ricattata da amici, o ricattata, presa in giro da amici con i messaggi. Addirittura, ci raccontava prima il vice direttore di Panorama, ha ricevuto oltre 2500 messaggi di derisione, di presa in giro da parte di amici. Poi non ce l'ha fatta più questa ragazzina, si è tolta la vita. Oggi, tra l'altro, sulla Stampa parla per la prima volta l'ex ragazzo minorenne di Carolina, che è indagato ora dalla procura di Torino. L'ex della ragazza suicida: è vero, l'ho insultata, ma le avevo chiesto scusa. Intervistato da Barbara Cottavozza, ovviamente non c'è il nome, essendo minorenne, viene intervistato nello studio dell'avvocato Celestino Corica. Lui dice: provo un immenso dolore, Carolina era una tipa forte, non avrei mai immaginato che la sua vita finisse così, non avevo capito. È lui il grande accusato dalla procura del Tribunale dei Minorenni di Torino, l'ha indagato per un reato pesante, avere causato la morte come conseguenza di un altro reato. È il mostro anche per la compagnia di Carolina, che lo accusa di essere responsabile con i suoi 5 amici, anche loro sotto inchiesta con accuse altrettanto pesanti, detenzione e di diffusione di materiale pedopornografico, violenza sessuale di gruppo. Insomma, racconta adesso questo ragazzo che appare distrutto in questa intervista: quello con Carolina è stato un rapporto ricco di sentimento e tenerezza, poi degenerato, troppa instabilità, troppi contrasti. È vero, quel giorno l'ho insultata, ma poi le avevo chiesto subito scusa, lei era stata contenta che fossi dispiaciuto. Alla famiglia di Carolina dico che da parte mia non c'è stata mai alcuna forma di persecuzione e risentimento, ho provato un dolore profondo, non avevo capito e non avrei mai pensato a una fine così drammatica, visto che lei aveva sempre mostrato un carattere forte. Ma insomma, il tema c'è tutto, ripeto, è anche l'approfondimento della copertina di Panorama, che mette proprio la foto di Carolina Picchio. Il titolo è Face Shock, questa ragazza di 14 anni si è uccisa dopo essere messa alla gogna su Facebook. Insomma, è un tema anche il viaggio tra i coetanei accusati ora di istigazione al suicidio, e un viaggio anche nella tecnologia, con la domanda che avevo posto io prima: chi ha i figli adolescenti che fa? Controlla? Vieta? è giusto discuterne, certo educare, ma poi che fare? Controllare, spiare quello che fanno quando si iscrivono nei social network? Beh, questo è un tema certamente profondo che poi questi episodi di cronaca riportano alla ribalta di tanto in tanto. Voglio andare prima della pubblicità a raccontarvi quello che racconta in breve il Fatto Quotidiano, pagina 12. È una storia raccontata da Beatrice Borromeo che riguarda la Sicilia. Pare uno dei tanti sprechi delle nostre regioni sui quali ora si concentra anche il governatore Rosario Crocetta, che dice: la formazione regionale la facevano con le escort. Questo è il titolo. Ma come con le escort, la formazione regionale? È la storia, secondo il presidente Crocetta, del CIAPI, che aveva una sede anche a Buenos Aires, dove mi dicono i deputati portavano le escort. Questa è l'accusa del presidente della Sicilia, secondo cui la succursale argentina dell'ente di formazione della regione Sicilia veniva utilizzato per scopi non proprio consoni. Il CIAPI, ancora non è chiaro se l'informazione sia arrivata al governatore dai corridoi della regione o dalla Guardia di Finanza, ma al Fatto Quotidiano Crocetta conferma: si tratta, è vero, di rumors che potrebbero rivelarsi letali per coloro che hanno abusato del CIAPI, che io considero una macchina infernale mangiasoldi nata in nome della casta. La vicenda delle prostitute non è recente, ma si mormora che sia sostanziosa. Oh! Sta dicendo il presidente della Sicilia che c'è una sede dell'ente chiamata CIAPI, della formazione della regione in Argentina, succursale nella quale deputati portavano le prostitute. Evviva, evviva, evviva. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo dall'Europa che ci promuove, ma fate attenzione, sarete sempre sorvegliati speciali. E poi la politica con lo psicodramma. P di psicodramma. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:35 minuti, siete contenti? L'Italia è stata promossa! È stata promossa dall'Unione Europea. Era come lo ha definito il ministro dell'economia Saccomanni, era il segreto di Pulcinella ieri. Ha detto proprio così: era il segreto di Pulcinella il fatto che l'Unione Europea ci togliesse dalla procedura di infrazione. Ormai da alcuni giorni si diceva questo. E dovreste essere contenti perché il premier Enrico Letta dice: è merito di tutti gli italiani. Che tradotto vuol dire: siete stati bastonati con una gragnuola di tasse negli ultimi anni e ora prendetevi il merito, se dovreste essere contenti, no? Bastonati ma felici che l'Italia sia fuori dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. È vero che vi siete svegliati questa mattina con questo pensiero profondo di felicità nei confronti di questa notizia. L'Europa ora avanti con le riforme, se siete felici e sorridenti al 100%, sappiate però che non è tutto oro quel che luccica, come si suol dire, perché l'Unione Europea ha detto: beh, sì, fuori dalla procedura di infrazione, ma bisogna fare le riforme. Sono arrivate le 6 raccomandazioni già ieri anticipate dal Sole 24 Ore, cioè risanare i conti pubblici, riformare tempestivamente in nome dell'efficienza al settore pubblico e la pubblica amministrazione, sostenere il credito alle attività produttive, dunque con più controllo sulle banche, allineare i salari alla produttività e quindi interventi importanti sul mercato del lavoro, ridurre la pressione fiscale sul lavoro e quindi il carico fiscale, chiede la Commissione di trasferirlo dal lavoro e capitale ai consumi. I servizi, più concorrenza e più libertà, e quindi maggiore libertà nei servizi e più concorrenza sul mercato. Insomma, l'Europa ha detto: bravi, siete stati promossi, però queste cose ora dovete farle. In tradotto, anche qui ci sono 3-4 anni per rifare il paese, altrimenti siamo spacciati. Comunque Beda Romano racconta, pagina 3, l'Europa ora avanti con le riforme. L'Italia ha ottenuto ieri l'attesa conclusione della procedura per deficit eccessivo dopo 4 anni di risanamento dei conti pubblici, ma la Commissione ha avvertito che questa decisione concede al paese un margine molto piccolo di politica economica, anche a causa del debito italiano molto elevato, quindi non ci sono soldi tanti da spendere. Il commissario agli affari economici Olli Rehn ha salutato con soddisfazione la correzione strutturale di bilancio adottata dall'Italia, che ha permesso al deficit di scendere al 3%, ma ripeto, dice, ha un margine molto piccolo di manovra sul fronte del bilancio. E poi bisogna fare quelle cose che vi ho elencato. tanto che anche Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che ogni tanto firmano l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, il titolo è "Ora illudersi è un delitto", scrivono: "Il rientro dell'Italia tra i paesi virtuosi è stato accolto con unanime sollievo. Molti interpretano questa decisione come l'inizio di una nuova era in cui i vincoli europei non saranno più un ostacolo all'aumento della spesa, al taglio delle tasse. Ma non è così. Intanto", scrivono Alesina e Giavazzi, "lo spazio per un taglio delle tasse purtroppo non c'è, né il margine per utilizzare fondi strutturali europei il cui cofinanziamento aumenterebbe il nostro deficit. Cosa bisogna fare? Le cose sono note da tempo: attuare le riforme strutturali suggerite per l'ennesima volta dall'Europa, rimettere le banche in condizione di prestare denaro, un altro punto sottolineato nelle raccomandazioni, e per far questo si può utilizzare il meccanismo europeo di stabilità, come ha fatto la Spagna, e poi diminuire la pressione fiscale, in primis sul lavoro, e di una quantità che faccia differenza, diciamo 50 miliardi. Questi il commento di Alesina e Giavazzi sulle cose da fare. Intanto si discute sempre dell'IVA. Libero non si sa per quale motivo e per quale sicumera scrive: "Ormai è certo, cari italiani, rassegnatevi, l'aumento dell'IVA a luglio non è più scongiurabile". In realtà il ministro Saccomanni, come racconta il Corriere a pagina 3 con Stefania Tamburello, dice: stiamo ragionando. Il governo sta ancora valutando se bloccare o meno l'aumento di un punto dell'IVA previsto per luglio. Si tratta di vedere come possa essere finanziata questo eventuale blocco, rimanendo all'interno di vincoli di bilancio e impegni presi a Bruxelles. Il punto è sempre questo: si può bloccare tutto qualsiasi aumento di tasse, in questo caso di IVA, ma poi bisogna trovare i soldi. In tutto questo, che pensate del commissario europeo all'energia, il tedesco Oettinger, che ci ha detto: "Gli italiani sono ingovernabili come Romania e Bulgaria"? Ah, però che bel giudizio da parte, il giorno proprio in cui la Commissione europea, tra l'altro, ci rimette in Serie A. Il Sole 24 Ore titola in prima pagina una gaffe über alles del tedesco Oettinger. Proprio nel giorno in cui ci mettono in Serie A, Oettinger dice: "Mi preoccupa che alcuni paesi come Bulgaria, Romania e Italia siano poco governabili. Gaffe über alles". A pagina 2 e 3 del Corriere della Sera anche Paolo Lepri dice: intanto è una persona, questo Oettinger, che già in passato si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno fatto discutere. È l'ex governatore cristiano democratico del Baden-Württemberg. Non è nuova esternazioni come quella in cui ha lamentato la difficile governabilità di alcuni scomodi iscritti al club europeo, e ci ha messo tra questi. In passato, per esempio, aveva chiesto di mettere le bandiere a mezz'asta dei paesi che non rispettavano i vincoli di bilancio. Siete ingovernabili, cari italiani, lo dice il commissario europeo all'energia Günther Oettinger, così conosciamo anche lui da oggi e non per meriti positivi. Il Sole 24 Ore mette i punti, le sei raccomandazioni, trovate a pagina 3, 4, 5, 6, un focus sul tema liberalizzazioni, sistema bancario, le tasse sul lavoro, la pubblica amministrazione, i conti pubblici, tutto quello che è stato fatto e tutto quello che c'è da fare, cosa chiede l'Unione Europea. Se volete studiare, così sappiamo la promozione in Serie A a cosa è vincolata da parte dell'Unione Europea. Quando poi dall'Unione Europea ci spostiamo in Italia, ragazzi, la politica ieri ha vissuto questo psicodramma. PD. Sapete che io dico che una delle cose a cui meno guardano gli italiani è la riforma elettorale. Cioè, proprio io sono convinto, se scendo adesso alla fermata della metropolitana che abbiamo qua vicino e chiedo a 100 persone cosa ne pensino della riforma elettorale, 80 non sanno neanche di che diavolo stiamo parlando. 10 forse sì, 10 devo scappare perché mi vogliono linciare. Eppure ieri la politica in Parlamento si è tutta divisa sulla questione della legge elettorale, soprattutto il PD, tanto che psicodramma ieri era il titolo che circolava per la maggiore per riassumere la giornata politica di ieri. Allora, le riforme, intanto Enrico Letta ha detto: ci vogliono 18 mesi, farle in 18 mesi o tutti a casa, che, come fa notare maliziosamente il Manifesto nell'articolo di Andrea Fabozzi, è anche un po' un modo per tirare a campare, forse, cioè scrive il manifesto, insomma, questi 18 mesi è un modo per dare anche una lunga vita al governo, la riforma che allunga la vita. Lungo dibattito nelle due camere, trionfano i calcoli sulla durata del governo, le manovre di maggioranza, insomma dello spirito costituente non c'è traccia. E ieri cosa è successo? È successo che il deputato del PD Giachetti ha presentato un emendamento per cancellare l'attuale Porcellum e tornare al vecchio Mattarellum, così track in tre righe, come molti dicono si può fare, potrebbe essere una soluzione. Il problema è che Giachetti è del PD e il PD, lo stesso Letta, lo stesso Anna Finocchiaro, hanno detto no, assolutamente, questa è una cosa che non si deve fare, è un mettere il carro davanti ai buoi, è un emendamento assolutamente inaccettabile, è una cosa prepotente. Insomma, hanno iniziato a litigare tra di loro all'interno del PD e poi sono passati alla seconda teoria. È Renzi che vuole minare il governo Letta e ha mandato avanti Giachetti con questo tentativo, e tutto il giorno hanno dibattuto su questo, tanto che alcuni giornali titolano proprio in prima pagina, guardate La Stampa, riforme, PD sull'orlo di una crisi, oppure Il Giornale, Renzi prova a far cadere Letta, il PD si spacca sul Porcellum, questo è il titolo del Secolo XIX. Ovviamente Giachetti fa una serie di interviste a dire ma no, ma che, Giachetti è un ex radicale, uno che ha digiunato anche a lungo per la riforma elettorale, è uno ossessionato dalle regole, così viene definito dai giornali, l'hanno dato vinta al PD, voteremo come in passato, dice così per esempio Giachetti a Repubblica. In qualsiasi momento dovesse andare in crisi il governo, è chiaro che andiamo a votare nuovamente con la legge di Calderoli, dice Giachetti. Ma come? No, andiamo a rivotare col Porcellum, ma chi lo direbbe mai? E ancora sul Quotidiano Nazionale, Matteo mi ha dato il suo via libera. Qui Giachetti un pochino apre e dice effettivamente... cioè è un'accusa grottesca quello di essere il braccio armato di Renzi, l'obiettivo era solo cambiare il Porcellum, ma quando ho scritto a 630 deputati prospettandogli la mia mozione non ho neanche informato Renzi, poi ho detto che intendevo andare avanti, ci ho messo la faccia e lui ha capito e mi ha incoraggiato a procedere. Quindi in qualche modo dice non sono braccio armato, però Renzi l'ha invitato a procedere, tanto che guardate qui in retroscena il gelo di Letta e i sospetti nel partito, Renzi è il regista dell'operazione, pagina 3 della Stampa con Carlo Bertini. Oppure i lettiani, Renzi vuol far cadere il premier, questa è Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, tanto che ieri Renzi da Lilli Gruber, l'abbiamo fatto sentire alle 6:30, ha detto non vorrei che il governo delle larghe intese diventasse quello delle lunghe attese, cioè come dire dai forza ragazzi lavorate, non se ne può più dei piagnoni, diamoci una smossa. Ecco, qui rischiava di crollare il PD, rischiava di crollare tutto. Berlusconi, che secondo un retroscena del Messaggero dice così il governo non tiene, ma per il momento se ne sta in Sardegna, annullato anche il vertice con l'allenatore del Milan, chissà ancora per quanto, Massimiliano Allegri, e non si sa che fine abbia fatto, cosa dica Berlusconi, se non così il governo non tiene. Insomma, cronaca di una giornata impazzita al Parlamento. Finita la giornata, hanno fatto la riforma elettorale? No, è tutto come prima. Eccoci, mentre arrivano tanti messaggi al 349-238-6666 di gente che ci dice ma ha ragione quel tedesco lì, cioè il commissario europeo dell'energia Oettinger, siamo davvero ingovernabili, non è una gaffe. Molti arrivano, non è una gaffe, forse ha ragione il tedesco, ha assolutamente ragione il tedesco. Vabbè, adesso non buttiamoci così giù, dai, damo questi 18 mesi e poi vediamo se la riforma elettorale si farà, ecco, insieme a qualcos'altro. Intanto noi parleremo anche di politica e rapporto PD Grillo, perché ieri Renzi ha aperto un po' a Grillo, dice adesso collaboriamo. Grillo ieri ha risposto chi collabora col PD è fuori, poi ha detto anche abbiamo vinto noi, hanno perso loro, insomma ha ribaltato il tavolo sulle amministrative, insomma hanno perso un po' tutti in realtà in termini di voto, ma Grillo ha ribaltato la questione. E poi c'è Roberta Lombardi. Roberta Lombardi ha fatto la decisione epocale di fare che cosa? Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, lo sarà ancora per pochi giorni, verrà sostituita da Riccardo Nuti, che sarà nostro ospite alle 8:30, e per vergare così la fine del suo periodo come portavoce, il suo trimestre da portavoce alla Camera, ha scritto una mail E qui è il paradosso. Ha scritto una mail a tutti i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle dicendo, accusando le spie di mandare le mail alla stampa. E ovviamente la mail è finita alla stampa. Testo della mail. Volevo scrivervi qualcosa per condividere con voi questa specie di assedio a cui siamo sottoposti, ma grazie allo stronzo, agli stronzi che fanno uscire tutto quello che scriviamo o diciamo sui giornali, mi è passata la poesia. Grazie per averci tolto anche la possibilità di parlarci in libertà. Sei una merda, chiunque tu sia. Ecco, R. punto. Come racconta la stampa, la Lombardi lascia con una mail al veleno contro le spie a 5 Stelle. Ha mandato questa mail e ovviamente, evidentemente, la merda o le merde, come le definirebbe Roberta Lombardi, ha spifferato anche questa mail sui giornali. È uscita sul sito d'Europa e vedremo se effettivamente questa cosa è vero. Chiederemo conferma anche a Riccardo Nuti. Intanto Beppe Grillo va, cerca di correre ai ripari. Come lo farà? Secondo la stampa, ma anche secondo il Secolo XIX, a pagina 3, Beppe Grillo, siccome ha capito che evidentemente bisogna fare i conti anche con la TV, con l'informazione in TV, diventerà maestro, farà proprio lezioni a gruppetti di 10-15 parlamentari alla volta, si inizia questo weekend, per gestire nel maniera migliore la TV. Grillo, maestro di TV, darà ripetizioni ai parlamentari. Questo è l'articolo del Secolo XIX, pagina 3. Ilario Lombardo. I 5 Stelle hanno capito sulla propria pelle, prima con la scudisciata di Report, poi con TV Talk, per non parlare di tutti gli altri salotti dove si parla di grillini, ma loro sono sempre assenti. Bisogna andare in TV e allora ecco partono i corsi di TV con un insegnante d'eccezione. Beppe Grillo in persona, insieme a Casaleggio, darà appunto lezioni. I primi a essere testati saranno, secondo il Secolo XIX, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, già avvezzi alle telecamere. E insomma, diciamo che c'è nel Movimento 5 Stelle in Lombardia anche Rocco Casalino, ex del Grande Fratello, ora nello staff al Senato, e quindi il rapporto con la TV ora verrà migliorato. C'è sui giornali molto anche dedicato alla morte di Franca Rame. Vi segnalo, addirittura alcuni giornali ci aprono, come il Fatto Quotidiano. Vi segnalo solo l'intervista che Anna Bandettini fa a Dario Fo. È un'intervista molto molto toccante, anche perché Dario Fo racconta a Repubblica, pagina 23, Franca è morta tra le mie braccia. Ero sveglio da poco, stavo facendo colazione, avevo lasciato Franca in camera da letto dove l'avevo aiutata ad alzarsi tra i suoi rimbrotti, peraltro perché diceva sempre che sono distratto, imbranato. Poi all'improvviso ho visto la nostra collaboratrice correre verso la stanza da letto, sono corso anch'io e c'era Franca sul letto che respirava a fatica. Ho provato subito a darle il ritmo giusto del respiro, a respirare con lei, ma capivo che faceva sempre più fatica. La chiamata al 118, io ho provato a farle la respirazione bocca a bocca, non so per quanto sono andata avanti, e lei poi è morta tra le mie braccia, se n'è andata mentre io avevo il suo volto tra le mie mani. Inizia così questo racconto poi di Dario Fo, che racconta anche ci vorrebbero e non basterebbero tre vite per raccontare la nostra storia. Ancora ieri abbiamo letto insieme il testo dello spettacolo sulla Callas, perché voleva fare questo. E poi invece la morte ieri anche abbastanza improvvisa. Il racconto del premio Nobel Dario Fo lo trovate su Repubblica. Voglio chiudere segnalandovi una bella storia, anche se un brutto episodio di cronaca, che Gianluca Ursini racconta sull'Unità. È la storia dell'ex sindaco di Crotone, di Isola di Capo Rizzuto, Carolina Girasole, che ha combattuto per mesi il clan degli Arena da sindaco, si è ripresentata sindaco, ha perso a questo giro, e per saluto finale, così lo chiama lei, le cosche gli hanno bruciato casa. Crotone, a fuoco la casa dell'ex sindaca antimafia, Carolina Girasole aveva trasformato Isola di Capo Rizzuto in un simbolo. Ora dice: mi hanno fatto un regalo di addio, e l'Unità racconta la sua lotta alla 'Ndrangheta. La trovate a pagina 13, la storia di Carolina Girasole. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di politica, due giorni dopo il voto. Ma allora, chi ha vinto, chi ha perso? Non si è ancora capito niente. Sta di fatto che ieri Beppe Grillo ha detto così. Lei non è deluso. Ma sono felice perché quando ieri metto Fantasco bellissimo era vero, non era ironico. Io sono felice, ma vedo che depistano l'informazione per non andare sulla catastrofe loro, perché se fa una comparazione tra amministrative, loro hanno perso, noi abbiamo vinto consiglieri. Insomma, loro hanno perso e noi abbiamo vinto. Questo è un po' il ribaltamento del tavolo rispetto almeno a quello che è la lettura dei giornali di ieri. E poi ieri c'era un'intervista a Matteo Renzi al Messaggero che dice, dopo le critiche a quelle del Movimento 5 Stelle, ora però collaboriamo. La risposta di Beppe Grillo è stata chi collabora col PD è fuori dal movimento, che non è un partito. Di questo parliamo. 800 24 00 24, se volete intervenire, cari ascoltatori. Insomma, la situazione politica e anche, se volete, dello psicodramma di ieri del Partito Democratico. Intanto lo facciamo con Riccardo Nuti, che è onorevole ed è del Movimento 5 Stelle alla Camera. Buongiorno e benvenuto, Nuti. Buongiorno a voi. Che tra l'altro, se non sbaglio, tra qualche giorno diventerà il capogruppo, no? del movimento. È già deciso, cioè, questo avvicendamento? Sì, confermo. Quando è che è esattamente la data? Non ricordo esattamente, ma se non mi sbaglio è il 5. Il 5 giugno, quindi quasi neo capogruppo del Movimento 5 Stelle. Saluto il senatore Andrea Marcucci del Partito Democratico. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Lei tra l'altro è presidente della Commissione Istruzione e Cultura, è un renziano, così va bene che così la identifichiamo, insomma, anche per gli ascoltatori, perché bisogna specificarlo sempre all'interno, diciamo, del PD. Non so se bisogna specificarlo sempre, comunque. No, perché per gli ascoltatori, insomma, sa diciamo che... Diciamo, la cosa non mi infastidisce affatto. No, ma questo assolutamente era per chiarezza agli ascoltatori. Allora, intanto, onorevole Nuti, anche per lei il dialogo con il PD è un qualcosa, un tabù, cioè che non si può assolutamente farlo, e chi lo fa è fuori? Beh, noi lo abbiamo detto fin dall'inizio, sia durante la campagna elettorale sia nel nostro codice di comportamento. In questo caso non ci si riferisce però alle singole proposte. Cioè, se ci sono proposte che noi condividiamo, che sono serie, di vero cambiamento, in quel caso noi collaboriamo con qualunque partito, non solo col PD. Le due cose sono ben diverse. Quindi l'unica cosa è che, ne so, c'è una proposta che rispecchia anche quello che è il programma del Movimento 5 Stelle, la si può appoggiare in sede di votazione alla Camera. Certo. Però tutto il resto non si può fare. Cioè, se uno, non so, noi non diciamo, come qualcuno sostiene, alcuni a casa. Noi abbiamo detto chiaramente tutti a casa, quindi diciamo, sarebbe un controsenso. Però ripeto, siccome a noi interessa il programma e le singole iniziative da portare avanti, in quel caso, se siamo d'accordo, le portiamo avanti. Quindi Murrenzi che strizza l'occhio e dice collaboriamo, lei personalmente come lo vede? Ma secondo me è l'immagine un po' della schizofrenia di questi partiti, che prima ti deridono e il giorno dopo magari ti tendono la mano. Sinceramente non ne capiamo il motivo. Un'immagine di schizofrenia dei partiti addirittura. Cioè, ma ad esempio una proposta di legge cofirmata con alcuni del PD è un qualcosa di impensabile su un tema ovviamente che rispecchia il programma del Movimento 5 Stelle? No, è come le ho detto prima, una proposta di legge sul quale siamo d'accordo, perché non proporla o non votarla più partiti? Si può fare, insomma. Noi per esempio ora abbiamo una mozione NOTAV che cercheremo di mettere in calendario insieme a SEL, ce n'è un'altra con un intergruppo parlamentare, non ricordo se c'è anche il PD, che riguarda l'abolizione degli F-35. Queste cose si possono fare, cioè, non se siamo, c'è... Cioè, se sono nel nostro programma, più sono d'accordo su queste idee, meglio è. E senta, invece sulla questione avete vinto, avete perso, non si capisce più niente. Cioè, intanto mi sembra di poter dire che hanno perso tutti, cioè in termini di voti tutti hanno avuto un calo di voti, ma addirittura Beppe Grillo che dice siamo noi che abbiamo vinto e sono i loro, cioè i partiti tradizionali, che hanno perso. Lei condivide questa analisi? In parte sì, per spiego perché. Perché in Italia purtroppo non si ha l'abitudine di paragonare i dati che sono confrontabili, ma invece ognuno fa i suoi paragoni confrontando mele con pere anziché mele con mele. E di conseguenza, come abbiamo visto in questi anni, i punti di vista non si sa perché, ma sono sempre che ognuno ha vinto e nessuno ha perso. Invece, secondo me, bisogna essere corretti e onesti e paragonare sempre gli stessi dati e a quel punto ammettere eventualmente che c'è stata una sconfitta o una vittoria. Mm. E invece questo purtroppo non accade. Non viene fatto. Però il fatto che ne so che è vero che sono elezioni diverse, ma già solo 3 mesi fa a Roma avevate, credo, il 24-5%, adesso il candidato ha preso il 12%. Qualcosa vorrà dire, non c'è proprio... No, attenzione, ma alle regionali sempre di febbraio, alle regionali, quindi dove c'è un voto un po' più personale e meno d'opinione, avevamo fatto il 16 a Roma. Mm. Quindi il dato è quello. Sono le comunali. Quindi una lieve flessione. No, il fatto è questo, cioè più ci si allontana da un voto d'opinione, che è quello delle nazionali, che è maggiormente un voto d'opinione, e quindi si va verso le comunali, è chiaro che in questo caso noi abbiamo il voto più basso. Sì. Ma lo è sempre stato. Allora, non c'è un caso, le comunali prenderemo... finché non faremo un chissà quale percorso che ci vorrà tanto tempo, noi faremo sempre un risultato più basso delle nazionali. Ma è normale, perché sono due tipologie di voto totalmente differenti. No, ma è chiaro, questo ieri lo spiegava anche bene il professor Dalimonte sul Sole 24 Ore. Allora, senatore Marcucci, che è successo? Renzi si è un po' ammattito a dire strizziamo l'occhio al Movimento 5 Stelle, cioè qua il Movimento 5 Stelle ha sempre detto noi non siamo un partito tradizionale. Va bene, se c'è una proposta insieme discutiamola, ma dopodiché chi ammicca al PD, come ha detto Beppe Grillo, è fuori dal movimento. Bene, intanto io confermo che sui singoli atti parlamentari, diciamo, la collaborazione è possibile e di fatto esiste. Io per esempio all'interno della mia commissione ad oggi abbiamo avuto 3 o 4 provvedimenti, alcuni dei quali abbastanza importanti, sui quali si è votato o all'unanimità o comunque con anche l'adesione del Movimento 5 Stelle, e parlo di distribuzione dei fondi sulla ricerca, parlo di scuola, parlo di cose comunque rilevanti sia nei programmi del PD sia nel programma del Movimento 5 Stelle. Detto questo, io credo che Matteo Renzi si riferisse al momento e al tema del momento, cioè le riforme sia istituzionali sia a quelle della legge elettorale. Credo che su questo il Movimento 5 Stelle, ma anche il Partito Democratico, debba fare una riflessione molto attenta. Noi, per esempio, io sono tra quelli convinti che il percorso che ieri è stato illustrato, sul quale c'è stato anche un dibattito abbastanza acceso anche all'interno del Partito Chiamiamolo Democratico. Dibattito acceso, senatore Marcucci. I giornali raccontano che eravate sull'orlo di una crisi di nervi all'interno del PD. Guardi, io non so gli altri, per quel che mi riguarda ero molto sereno, ma vede, io sono tra, penso che poi alla fine su questioni così importanti in un partito grande che ha l'ambizione di rappresentare tutto il paese e le varie istanze, quando si parla di regole, di cambiare i meccanismi eccetera, che ci sia un dibattito lo vedo un valore aggiunto. A me questo concetto che bisogna per forza e subito, senza un confronto interno, avere l'adesione alla linea del capo, forse lei non ha letto i giornali oggi. Molti giornali sul Corriere dicono i lettiani dicono che i renziani erano quelli che volevano far cadere, minare il governo, mandando avanti i Giacchetti. Ma che ha fatto a parte Giacchetti, chi lo conosce, lei probabilmente lo conosce. Sì. È un ex radicale. Che è un ex radicale, forse è radicale ancora oggi. Sì. È una persona molto intelligente, molto capace. Ora, definirlo e presentarlo come l'uomo all'Avana mi sembra un po' così, un po' superficiale, quantomeno nell'analisi personale e anche politica del soggetto. Persona molto capace, molto determinata. Questa battaglia sulla legge elettorale la sta portando avanti da anni. Credo che sia una battaglia giusta. Anch'io sono come lui convinto che oggi noi si abbia la necessità, il dovere sì. di provare a modificare questa legge elettorale in tempi più rapidi di quelli che la maggioranza del Partito Democratico ipotizza come però quelli questo corretti. Per la legge elettorale, ma questo il Movimento 5 Stelle cosa c'entra? Cioè lei vuol far, si sente per dire di fare un appello, anche se Nuti sta alla Camera, ma comunque il rappresentante del Movimento 5 Stelle dice mettiamoci insieme e facciamo una riforma elettorale. Io credo che noi si debba, sulla legge elettorale credo che si debba partire il più velocemente possibile e mi auguro che poi una volta partito il processo delle riforme si ripensi su questo, si possa fare serenamente un iter parlamentare da subito sulla legge elettorale, perché lo ricordo, a sì. differenza di tutte le altre riforme, la riforma elettorale viene approvata con lettura semplice, cioè una legge ordinaria e quindi viene votata da Camera e Senato e diventa legge operativa. Credo che lo si debba fare in Parlamento confrontandosi con tutte le forze e senza schema maggioranza minoranza. Ma questo quindi... sì, però c'è cioè, qua non so, c'è il Movimento 5 Stelle dice per esempio il finanziamento ai partiti, però dice da mesi dice toglietelo totalmente, eccetera. Che discussioni bisogna fare per quelli del Movimento 5 Stelle? Nessuna, cioè mettete zero, una bella O come faceva Giotto col compasso e la discussione è finita. Si vede che loro hanno dei meccanismi decisionali e anche di confronto più semplici e forse meno antichi come i nostri, e invece noi abbiamo bisogno di più tempo perché sul finanziamento dei partiti io per esempio metterei volentieri zero, ho presentato una proposta di legge che fece anche un po' di scalpore qualche settimana fa perché anche lì ci additarono tra virgolette i renziani che volevano forzare eccetera eccetera, quindi io sono convinto che bisogna trovare delle fonti di finanziamento per i partiti diverse da quello sentiamo un attimo Nuti, voi insomma vedete un po' dei meccanismi un po' più elaborati nei partiti per cui voi invece in 448 per alzata di mano siete più semplici a decidere, forse questo è un po' il problema? Sono stupito di questo perché non so se anche lei ricorda la stessa cosa, qualche mese fa si diceva che noi con il nostro momento di democrazia interna che facciamo sempre assemblee e così via siamo sicuramente più lenti dei tempi invece che i parlamentari, dei tempi che invece hanno gli altri partiti, oggi invece sto sentendo il contrario. Secondo me la differenza forse sta nella semplicità e nella linearità fra idea di programma e azione che si propone, invece spesso capita che nei partiti si dice una cosa però poi la si vuole trasformare in un'altra cosa che non è proprio coincidente con l'idea. Oppure forse c'è un confronto diverso, cioè si sa che ci sono varie anime per esempio del Partito Democratico su questo, però ripartiamo tra pochi minuti, tra 4 minuti siamo con voi Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle che tra qualche giorno sarà il capogruppo alla Camera, il senatore Andrea Marcucci del PD, anche perché Nuti devo capire questa storia della mail, se è partito no, non la può scampare questa mail che sarebbe arrivata, scrivono tutti i giornali, in cui la capogruppo attuale Roberta Lombardi ha decretato chi fa la spia è una merda insomma all'interno del Movimento 5 Stelle. 24 mattino. Allora noi abbiamo titolato un po' provocatoriamente Grillini venite a me, non so, Matteo Renzi che stringe l'occhio al Movimento 5 Stelle. Comunque c'è con noi il senatore Andrea Marcucci del PD e c'è con noi l'onorevole Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle. Nuti, le devo chiedere allora questa cosa, la mail di Roberta Lombardi intanto è arrivata, no? E ovviamente la tra virgolette merda accusata di farla spia l'ha mandata ai giornali, è così? È arrivata, ma perché però scrivere una mail in cui chi fa la spia ai giornali è una merda, sei uno stronzo sembra sarà stato uno sfogo, ma era il caso di mandare una mail del genere da parte del capogruppo? Ma io non so se è il caso o meno, però sicuramente il concetto che ci sono persone che hanno accettato le regole di comportamento stando in un gruppo e poi non hanno neanche il coraggio, comunque la trasparenza di dire sì, sono io che comunico queste cose alla stampa girando le nostre mail interne. Sicuramente non è una cosa apprezzabile. Cioè, in qualunque gruppo, in qualunque azienda, certe informazioni all'interno dell'azienda e del gruppo non vanno divulgate all'esterno. Quindi lei personalmente, se si venisse a sapere uno che dice sono stato io, che sarebbe il destino di questa persona? Dovrebbe essere cacciato dal movimento? Ma nel momento in cui la persona dice sono stato io, la prima domanda è Scusami, ma quindi ci stai confermando che a te del gruppo non interessa niente? Quindi, dopodiché, se una persona non vuole stare nel gruppo e fa queste azioni, secondo lei lo possiamo costringere a restare con noi? Quindi vuol dire... Io direi di no. Lei direbbe di no, cioè lei, diciamo, secondo lei uno così viola il codice di comportamento, non potrebbe più far parte del Movimento 5 Stelle. Ma viola anche qualunque rapporto umano che c'è all'interno di un gruppo. Cioè, quindi... io non penso che qualcuno che lavora a Radio 24, se ci sono delle informazioni riservate al vostro interno, le invia a Radio Capital. Certo, se no, insomma, viola. E quindi, ma quanti sono secondo lei? Uno, due, cinque? Ma questo è impossibile riuscire a saperlo. Uno sicuro, magari. Almeno uno sicuro. Almeno uno. Ma anche lei direbbe che è una merda, come ha scritto Lombardi? Ma guardi, ognuno può usare il termine che vuole, a me mi accusano spesso di essere un po' troppo diretto. Come lo definirebbe? Nella sostanza, alla fine, il concetto è quello. Il concetto è quello. Si può dire che è una persona falsa, si può dire che è una persona irrispettosa, si può dire, come ha scritto Roberto Lombardi, che è una merda, ma la sostanza non cambia. Non cambia la sostanza. Ma cioè, avete un modo per capire, voglio dire, di rintracciare questa o queste persone? Oppure perché, voglio dire, è un problema, cioè avete qualche quinta colonna all'interno. Guardi, sinceramente, detto fra noi, non mi sembra che sia una cosa così problematica rispetto alle altre. Cioè, volendo fare un paragone dove destinare le forze, noi dobbiamo concentrarci di più nel cercare di affrontare i problemi reali piuttosto che pensare alla sì. mail che esce. No, questo sì, se però... non ci dedichiamo tanto tempo. No, questo è chiaro, se però avete delle comunicazioni da farvi, anche riservate, qualcuno le spiattella, è un problema, perché poi come fate a comunicare in maniera, se non individuate mai chi lo fa? Non lo so, prima o poi in qualche modo lo individueremo, lui stesso o lei stessa deciderà la sua intenzione, le sue azioni. Per ora non stiamo facendo chissà cosa per individuarlo, prima o poi uscirà fuori, ma ripeto, secondo me l'errore è preoccuparsene più di tanto. Quando ci sono delle altre comunicazioni, diciamo in assemblea, se questa persona dall'assemblea, come già accaduto, le vuole raccontare alla stampa, lo faccia pure, ma dico, non niente di segreto al nostro interno, dico sì. Segreto da nascondere sì. A tutti i costi. Senatore Marcucci, qui il rapporto, ma com'è il rapporto personale con quelli del Movimento 5 Stelle? Lei che riconosce al Senato sono un po' meno che alla Camera. Sono così un po' ossessionati, no, da quello che succede intorno? Hanno un po' la sindrome d'accerchiamento di tutto quello che dicono e fanno? Ma guardi, credo che sia normale perché arriva neofita in un'assemblea complicata come quella del Senato e della Camera a avere circospezioni, dopodiché ci sono queste attenzioni politiche che loro reputano di dover avere. Credo che l'inizio del lavoro delle commissioni sia importante per diciamo modificare questa situazione, e in effetti, lo dicevo prima, sta avvenendo nella commissione dove io presiedo, ma mi dicono che sta avvenendo anche nelle altre commissioni. C'è l'occasione per tutti, incluso per la minoranza, tra virgolette, in questa fase, di dare contributi sui provvedimenti che ci sono, e mi sembra che delle competenze specifiche stiano venendo fuori. Io torno al ragionamento della collaborazione legislativi, io credo che ci siano su questioni che non riguardano prettamente la maggioranza o la minoranza, il supporto o non il supporto del governo, ma che riguardano temi più generali come quelli della legge elettorale, quindi quello delle regole, sì. Io credo che si possa collaborare sul finanziamento pubblico, credo che si possa lavorare insieme, e la problematica, i meccanismi decisionali, chi è più veloce o chi è più lento, ognuno guarda a casa propria con grande serenità, affronta i problemi interni, sì. Mi sembra li abbiamo tutti. Ma lei però, scusi, senatore, continua a dire si può collaborare per esempio per il finanziamento pubblico ai partiti, ma di là ci sono quelli che dicono noi non li prendiamo, abbiamo restituito 40 milioni, e voi invece ci siete, voi renziani, che anche con l'onorevole Nardella avete mandato avanti un progetto di legge chiaro a abolire il finanziamento, c'è chi nicchia, c'è chi dice di no, c'è chi non lo so, c'è chi tira da una parte. Vabbè, intanto si comincia la collaborazione, e alla Camera il Movimento 5 Stelle firma il provvedimento presentato dall'amico Dario Nardella, o al Senato viene firmato quello presentato a prima firma Marcucci sull'abolizione del finanziamento. E l'hanno pubblico. Firmato? L'hanno firmato? No. Però voglio dire, non è la mia, non è una recriminazione, è un invito. Sì, certo. Nuti, bisognerebbe firmare per esempio alla Camera il DDL Nardella, l'abbiamo avuto nei giorni scorsi Nardella, che chiede abolire il finanziamento, detassare, farlo... oppure scusi, perché... ma settimane fa ne abbiamo presentato uno noi, ma settimane fa ormai, sì, abbiamo certo, chiesto certo. pure in capigruppo di calendarizzarlo con urgenza, quindi mi sa che sarà anche il nostro provvedimento... sarà messo in calendario nelle prossime settimane. Quindi, quindi dice che senso ha, che chi se ne frega di firmare il progetto di legge di un altro? No, vabbè, in commissione, come il senatore sa, poi verranno accorpate le due o le tre, le più proposte, tutte le proposte di legge al riguardo. Però, dico, noi abbiamo chiesto più volte la firma anche, se non sbaglio, del Presidente del Consiglio Letta. Quindi... noi più che disponibili sotto questo punto di vista. Andate per questa strada. La differenza che invece va si nota è che noi, come diceva lei, siamo per l'abolizione e basta, e infatti diamo l'esempio sì. e restituiamo, mentre invece magari all'interno del Partito Democratico ci sono varie idee. Più anime, più idee. Vabbè, ma voglio dire, all'interno di un partito ci sta, cioè è anche un dibattito, non è che sono tutti regimentati un po' come voi, che questa è l'accusa che vi fanno. No, io devo concludere questo. Nuti, lei che impegno si prende come capogruppo del Movimento 5 Stelle o portavoce, tanto siete 3 mesi, di essere magari anche meno duro della Lombardi, o l'hanno accusata di essere un generale che quando non sa che fare... prendere mail, prende carta e penna, scrive, di una durezza. Chi, Roberta? È impressionante, di una durezza, no? Quasi da generale in gonnella. Ma no, guardi, secondo me Roberta non è così generale, semplicemente dopo tanto tempo, un gruppo che si sta formando, che all'inizio ci sono questi elementi che fanno queste azioni, è chiaro che magari c'è un po' di sfiducia, un po' di nervosismo, è comprensibile. Quindi al suo posto non sarebbe un pochettino innervosito da questa da queste abbastanza vista la mail. No, l'ultima cosa è questa. Anche lei andrà a lezione di TV da Beppe. È vero che ci sono le lezioni di TV che farà Beppe Grillo a partire da domani, cioè istruirà come ci si comporta davanti alle telecamere? Guardi, non è proprio una lezione, sarà vi insegnerà. Un incontro gratuito di un pomeriggio, una mezza giornata, ci va anche per poter lei. dare qualche nozione dal punto di vista della mediatico. Ma ci va anche lei? Ci va anche lei. Sì, io sono il prossimo capogruppo, mi dica lei se io non devo migliorare in questo. È il primo, va bene. Io vi ringrazio, Riccardo Nuti del Movimento 5 Stelle, capogruppo tra qualche giorno, sì, credo anch'io il 5 giugno aver letto, alla Camera, così come il senatore Andrea Marcucci del PD. Per essere stati con noi, io voglio salutare, intanto sarà con noi fino alla chiusura del programma il sindaco di Comiso, Giuseppe Alfano. Sindaco, buongiorno. No, chiedo scusa per il rumore di fondo, ma siamo all'aeroporto. Una folla immensa, sì, all'inaugurazione dell'aeroporto di Comiso. Ah, una folla immensa. Allora aspetti un attimo perché c'è il traffico, tra un minuto solo da lei, perché il momento è vibrante di tensione. Si inaugura oggi, si apre l'aeroporto di Comiso in provincia di Ragusa. Tutti, molti a dire, i detrattori, ma che serve un nuovo aeroporto, vabbè, ce lo spiegherà il sindaco. Eccoci, 8:46 minuti, andiamo a Comiso, dove c'è, quanta folla c'è, sindaco Alfano? Ma guardi, io sono fuori, ci saranno circa 1200 persone, 1000 persone, insomma un bel po' di gente. Un bel po' di gente. Mi conto che l'orario non è che sia proprio, cercavano di mettermi la fascia, ma sono un po' incapace. Le stanno mettendo la fascia, attenzione, c'è il momento della vestizione, perché oggi c'è l'inaugurazione del dell'aeroporto, l'apertura dell'aeroporto di Comiso, l'inizio dell'operatività di questa struttura che attende di essere consegnata al territorio da diversi anni, è stata completata nel 2010, poi collaudata, certificata e oggi finalmente potrà ricevere gli aeromobili. Che c'è oggi anche la benedizione. Assolutamente, sono accanto a Sua Eccellenza il Vescovo, sul Monsignor Paolo Urso, e tra poco faremo un semplicissimo taglio del nastro e la benedizione dell'aerostazione, una cerimonia molto sobria e a costo zero per l'amministrazione, Senta, come siamo soliti fare noi. Senta sindaco, noi ne abbiamo già parlato in passato, ma chi se ne frega di un nuovo aeroporto a Comiso, obiettivamente? A voi non servirà, lei parla da Milano, ne avete due, poi ne avete un altro a circa 90 chilometri, per noi invece è fondamentale. Perché questo territorio è un territorio che ha una vocazione turistica molto forte, è una delle province con la più alta concentrazione di patrimonio funzionario UNESCO, di siti UNESCO. Io ho di fronte a me oltre 100 lavoratori che sono qua a protestare perché stanno chiudendo i villaggi turistici, perché non arrivano i turisti. Magari lo andate a spiegare a loro il perché. Ma scusi, atterrano a Catania e fanno un po' di strada e arrivano. Chiudete Malpensa, chiudete Bergamo, avete già Linate, non ha senso che abbiate tre aeroporti nel giro di 300 km. Ma io sono d'accordo con lei, ma guardi che il problema è che ho letto sulla stampa che c'è l'aeroporto, ma non ci sono le compagnie al momento che atterrano a Comiso. E questo è un problema della stampa che purtroppo, come tanti altri, anche non giornalisti, non si informano, perché se si informassero saprebbero che se l'aeroporto non apre, nessuna compagnia aerea può venire prima a verificare con un audit interno se l'aeroporto è consono, se è compagente alle proprie caratteristiche. Al momento bisogna prima aprirlo, poi le compagnie devono fare delle ricognizioni per verificare. Quali compagnie arriveranno secondo lei? Ci saranno? Allora, non secondo me, noi abbiamo già sul tavolo il contratto di una compagnia estera importante che si occupa di una cosa che fa muovere 65 milioni di persone al mondo ogni anno. Ma dica il nome, può fare pubblicità. Si tratta semplicemente di Ryanair, la prima compagnia low cost del mondo. Ryanair. Il prossimo agosto farà partire da 4 voli, ma abbiamo anche Air One che farà partire il volo per Milano da settembre, Wizz Air che ci ha detto che vuole fare dei voli per Praga, Bucarest e Budapest, altre piccole compagnie che ci collegheranno con Malta e con Tunisi. Noi guardi che lavoro lo sappiamo fare bene, abbiamo lottato contro tutto e contro tutti perché questo sogno, questa realtà diventasse una speranza per questo territorio. Ci crediamo fermamente e convintamente. Anche l'ostilità di altri ci hanno fatto capire che abbiamo ragione. Chi? Perché per esempio, guardi, Vito Riggio dell'ENAC, che è presidente dell'ENAC, ha detto ma è un aeroporto di intanto deve stare sulle proprie gambe, cioè deve reggersi con costi. Lavora, poi tra 3 anni vediamo se l'aeroporto può stare o non può stare sulle proprie gambe. Il problema vostro, in generale, di chi critica o di chi è un po' freddo di fronte a questa struttura, è che non si è mai aperto in 60 anni l'aeroporto nuovo. Oggi è la prima volta in 60 anni che ci inaugura un aeroporto di queste dimensioni nuove. Giustamente questa cosa lascia un po' perplessi. No, ma non è che stare perplessi, giustamente lei dice. No, ma certo. Ma giustamente lei dice adesso si apre e si vedrà se arriveranno le compagnie. Ma mettiamo caso che, e noi vi auguriamo un grandissimo successo, che non vadano in porto perché la Ryanair non le conviene, le altre compagnie non conviene. Ryanair ci ha già mandato il contratto, siamo pronti a chiudere. Giorno 7 avremo qua un convegno al quale molto probabilmente parteciperà proprio il presidente di Ryanair. Quindi di che cosa stiamo parlando? No, però con una compagnia non è che si regge, ha detto 3 voli. Ma vale a chiedere a Trapani allora, che se con una compagnia non si regge, e soprattutto vale a chiedere a Trapani se quella compagnia non ha fatto cambiare drasticamente o positivamente l'economia di questo territorio. Io credo che ci siano un po' troppi sì e un po' troppi però oggi. Tra 3 anni ne riparliamo. Ne riparliamo tra 3 anni. È vero che è costato per il momento 40 milioni di euro, leggevo questa cifra, tra Unione Europea. Più o meno quello che si spende per fare una rampa di un'autostrada del nord. Noi ci abbiamo fatto un aeroporto. Mannaggia, ma lei è proprio arrabbiatissimo col nord. Che c'è? Perché... No, mi dispiace che chiamate solamente per dire ma perché, per come, invece di dire auguri. Ma certo, ma io le facciamo le auguri. Assolutamente, ma mica siamo qui a sperare che l'aeroporto di Comiso vada male. Sarebbe indotto per le persone, lavoro, turismo, soldi. Invito ufficialmente sin da ora, appena sarà inaugurata la tratta Milano Malpensa, Comiso, a venirci a trovare, a passare un po' di tempo nelle nostre spiagge sotto il sole. Guardi, anche se in ottobre, novembre potete venire a fare il bagno tranquillamente. Ma guardi, lo dice a me che a Milano piove da 50 giorni consecutivi, quindi vengo. Perché ho tanti amici anche lì. Vengo appena c'è una compagnia che viene a Comiso, però perché sennò da Comiso la vengo a prendere e la riporto giù, non si preoccupi, non è un problema. Vabbè, ma oggi sa che c'era nel 2007 venuto D'Alema, era il vicepresidente del consiglio allora? Io non ero sindaco però allora, lui era vicepresidente del consiglio. E cosa disse? Tra qualche mese avremo un grande aeroporto, tra qualche mese. Ma poi D'Alema quando partì da Milano gli avevano detto che qui c'era solo la pista ancora e che tutto il resto doveva essere costruito, quindi quando arrivò rimase un po' spiazzato, che doveva fare, in qualche modo ormai doveva visto che la linea va e viene. Ma che succede? Le hanno messo la fascia? Ce l'ha fatta? Sì, no, ancora non l'hanno messo, la metto da solo, che forse è meglio, come faccio sempre. Io faccio tante cose, le faccio da solo e mi riescono sempre benissimo. Senta, sindaco, no, nel salutarla, io so che poi l'altro giorno, ieri quando l'abbiamo chiamata, ha detto vabbè, se mi chiamate per parlare di queste minchiate io non parlo. Cioè, c'è stata anche la vicenda, che però è stata... Me la faccia dire. Me la faccia dire. Io io torno dalla mia gente e mi faccio l'evacuazione all'aeroporto perché devo tagliare il nastro. Va bene, che vi ringrazio della vostra neanche, attenzione. Neanche me lo fa dire. L'aspetto in provincia di Ragusa e a Comiso per visitare la più bella terra del sud-est della Sicilia. Va il beh. Nostro barocco. Voi tra l'altro sapete di che parlo perché sono le zone in cui è ambientato l'ufficio del commissario Montalbano, quindi certo, sapete certo. Già quello che troverete, vi aspetto. Grazie. Grazie sindaco, ci saluti il vescovo, buona benedizione ovviamente in bocca al lupo. Madonna come ha agguerrito il sindaco di Comiso Alfano, è molto sulla difensiva. La vicenda che volevo raccontare per la quale il sindaco di Alfano era stato indagato, ma è tutto archiviato perché il fatto non sussiste, quindi questo per correttezza, era che avevano fatto un test del Ferrari, un paio di Ferrari che sfrecciavano per un test che dovevano fare lì da quelle parti e avevano utilizzato la pista di Comiso perché non era ancora utilizzata. Comunque era stato indagato, ma ripeto, poi archiviato tutto dai magistrati e dal giudice perché il fatto non sussiste, ma c'era stata anche una polemica su questo. No, ma tanti in bocca al lupo, auguri all'aeroporto di Comiso che nasce oggi, primo aeroporto che nasce dopo 60 anni e speriamo davvero che porti successo, turismo, soldi, indotto alla regione Sicilia, mica siamo qua a inaugurare e a sperare che vada male. Che devo dire, in due minuti ci sono ancora degli ascoltatori ai quali chiedo scusa, erano in linea. Marco dalla provincia di Milano, Marco buongiorno. Sì buongiorno. Ha sentito il sindaco? Fare complimenti al sindaco perché comunque credo proprio che sia che faccia le cose in un certo modo. Sì, ma devono arrivare gli aerei prima però lui dice giusto... No, ma secondo me ha ragione appunto sul fatto di dire che prima si devono aprire aeroporti, sì. Perché poi si sono informati, non è che ha fatto le cose in qualche maniera, io credo. Ma va, non succede mai in Italia di fare le cose così. No, ascolta, questo è vero, però per quello che riguarda, io un po' la cosa l'ho seguita e nonostante tutte le cose diciamo incredibili che si sentono, credo che probabilmente questo è uno delle cose positive. Quindi è una cosa positiva. No, ma noi speriamo, secondo cioè non è che siamo qua. Noi è vero, sì, io sono qua, faccio il giornalista, faccio anche le domande scomode, ma lui è partito subito sulla certo. Difensiva a dire ci chiamate, non lo so, sperate che vada male. No, ma no, speriamo che vada bene. Certo, fa un po' specie pensare che ci sia l'apertura di un aeroporto a Comiso quando a non tantissimi chilometri c'è Catania, però capisco le infrastrutture, le strade, non è facile arrivare a 50 metri dai villaggi turistici, è meglio che arrivare a non so, a 100 chilometri. Comunque mi devo fermare, vi ringrazio, grazie. Allora, voglio ricordare che sul sito radio24.it trovate tutto, potete ascoltare la puntata appena andate in onda da subito. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione insieme a Elisabetta Fusconi, a Alessandro Longoni e che dire anche al nostro alpino Peter Bescapè che è sempre lì in regia. Ti troviamo anche domani, Peter? Certo sì, anche domani. Seguiteci anche su Twitter, Alino Milan, quello sono io, potete seguirmi, potete anche insultarmi che non mi offendo, a brigante, brigante e mezzo, rispondo così, e invece 24 mattino così trovate il profilo Twitter della trasmissione. Siamo anche su Facebook, così 24 mattino. Abbiamo detto tutto, chiudiamo con D'Alema 2007, l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Adesso insomma ci vorrà ancora un po', ma verrà un grande aeroporto, la pista è bellissima. Penso che certamente quest'area che ha un'agricoltura moderna, di qualità, che ha potenzialità turistiche straordinarie, saprà giovarsi di questa grande infrastruttura. 24 mattino.